È una gioia stare qui. Come mi potete sentire oggi? La voce c'è, non c'è? Forse Dio mi vuole dire qualcosa, mi vuole non gridare troppo, ok? Come Lui vuole. Però non c'è limite alla potenza straordinaria di Dio. Non c'è nessuna persona che può dirsi limitata nel fare qualcosa. È veramente bello tutto quello che è successo finora. E io voglio dire con voi che abbiamo il miglior pastore della regione. E voi mi dovete dire di più. Abbiamo il miglior pastore della regione. Abbiamo il miglior pastore dell'Italia. Nel frattempo faccio le prove tecniche di grido. Di più. Abbiamo il miglior pastore del mondo. È questo che noi dichiariamo, è un gesto d'affetto, è una manifestazione d'affetto, ma non possiamo difettare nel dire che abbiamo il pastore giusto per questo tempo. Non possiamo difettare nel dire che abbiamo Gianni e Angela che hanno parlato, che è la coppia giusta e la coppia migliore per poter vivere l'amicizia, per poter vivere grandi tempi all'interno dei gruppi, per poter stare insieme a loro. Noi siamo le persone giuste, nel posto giusto e nel tempo giusto. E oggi parliamo del tempo. Vi faccio una domanda. Quanti di voi vorrebbero avere più tempo perché non riescono a fare tutte le cose che fanno? Amen. Quanti vorrebbero 12 ore di più al giorno, un giorno in più alla settimana? Allora, c'è qualche mano alzata in meno, perché qualcuno sicuramente sta pensando, qui c'è il pacco, 12 ore in più, 10 ore in più di lavoro, no grazie, e avete anche ragione. Quanti in questo momento stanno vivendo una situazione, una stagione particolare, vedono le lancette del tempo passare, e si chiedono, questo tempo non passa, vorrei andare oltre. Guardate quanto il tempo determina le nostre stagioni. È come il tempo delle volte, in modo forte, imperioso, impetuoso, vuole entrare nelle nostre vite e dirigere i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Delle volte il tempo vuole divorare le nostre esistenze. Sapete, c'è un fattore che è molto forte in questo tempo e che ci colpisce ed è molto legato al tempo e si chiama fattore stress. Lo stress è una vera e propria malattia che ci porta mal di testa, mal di pancia, ansia, depressione. E delle volte ci piomba addosso perché ciò che viviamo è talmente forte che non riusciamo a gestirlo. E capita spesso nel mondo del lavoro che ci sentiamo stressati perché i ritmi che viviamo sono troppo più alti rispetto a quello che noi crediamo di poter dare. E ci immedesimiamo così tanto nel lavoro che iniziamo a stare male, perché abbiamo delle scadenze, perché dobbiamo raggiungere in un breve tempo degli obiettivi. E più passano gli anni, più vediamo come gli obiettivi diventano sempre più ristretti. E questo non ci fa vivere bene il nostro tempo. Le relazioni possono provocare stress quando si interrompono, quando si deteriorano, quando tu inizi a vedere che c'è qualcosa che non va, quando qualcuno litiga con noi o noi litighiamo con qualcuno. E allora noi crediamo che il tempo sarà fondamentale per guarire le nostre ferite. Ma questa è la più grande bugia che possiamo vivere. Non è il tempo a poter cambiare la nostra situazione e guarire le nostre ferite. Semmai il tempo va a seppellire il problema, le tue ferite emotive, ma nel momento che non ti aspetti risale il problema, perché solo il perdono può portare guarigione, solo Dio può portare guarigione nelle nostre vite. il tempo può essere legato anche a delle aspettative che ci procurano stress, perché noi abbiamo degli obiettivi ed è giusto averli. E a inizio anno ci poniamo degli obiettivi e alla fine dell'anno tiriamo i conti. E spesso vediamo che i conti non tornano. E questo può portare frustrazione, ansia. E vediamo che le lancette dell'orologio camminano, camminano, ma noi vorremmo un tempo diverso. E questo non ci fa stare bene. Lo stress può avere a che fare con qualcosa di imminente che arriva, che noi non ci aspettiamo, che può essere una malattia, un lutto, un trasferimento, un trasloco. E noi vorremmo che quel tempo potesse andare via. Speriamo, speriamo che non possa mai arrivare, ma arriva. E arriva anche il tempo in cui puoi cambiare casa e vivi la paura di cambiare di nuovo tutte le relazioni intorno a te. Sapete, c'è un uomo che nella Bibbia ha parlato del tempo e si racconta di un uomo che con la sua saggezza cerca di arrivare alla soddisfazione di se stesso, della propria felicità. Si chiama Ecclesiaste. Il libro dell'Ecclesiaste è molto profondo, parla di un uomo saggio che conosce Dio, che teme Dio, ma non vive pienamente Dio nella sua vita, perché lui vuole raggiungere i propri fini attraverso la saggezza. E lui inizia a dire: ho provato nel lavoro, nei miei piaceri, nelle ricchezze, la soddisfazione, ma non trovo nulla di nuovo sotto il sole. Non c'è nulla di nuovo. Tutto è vanità. E poi a un certo punto c'è un intero capitolo dedicato al tempo. E l'Ecclesiaste dice: io so una cosa. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Ed è così. C'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare. E ci succede. C'è un tempo per gioire, un tempo per piangere. Ed è vero. E a un certo punto l'Ecclesiaste dice: però Dio ha messo dentro di noi il pensiero dell'eternità, ma non lo riusciamo a comprendere pienamente, siamo limitati in questo. E se io vi chiedessi cos'è l'eternità, cosa saremo e cosa faremo un giorno, arriviamo fino a un certo punto, perché siamo bloccati, bloccati all'interno di questo tempo sulla terra che scorre e non possiamo arrivare a comprendere. Però in quel libro è scritto che c'è un'eternità e c'è dentro di noi questo pensiero. E la Bibbia in modo molto chiaro ci parla del tempo come qualcosa di speciale, e tutto quello che finora abbiamo detto noi lo possiamo vincere e superare realizzando cosa vuole Dio nel nostro tempo. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 7 versi 29 e 31 ci parla di qualcosa, ci parla di quelle che sono le nostre priorità, ma a un certo punto ferma quelle che sono le nostre priorità e ci parla di un tempo speciale. È scritto: ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, siano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano di questo mondo, come se non ne usassero. Perché la figura di questo mondo passa. E questo passo è all'interno di un capitolo più grande che parla di matrimonio, divorzio, parla di essere single, essere soli. E l'Apostolo Paolo dice che tu sia solo, che tu sia sposato, l'importante a un certo punto dice è che tu fai la volontà di Dio, che segui Dio. Questa è la priorità, è la cosa più importante. E a un certo punto ci parla di questo tempo, che letto così sembrerebbe quasi un tempo di giudizio che sta arrivando, e a un certo punto sembra quasi che sia poco importante il matrimonio a tal punto da dire chi è sposato è come se non si sposasse, chi è felice è come se non fosse felice, chi sta piangendo non piangesse, perché c'è un tempo che si sta abbreviando. Ma per capire bene questo passo entriamo nella cultura del tempo. È Paolo che dice: io mi sono fatto anche greco con i greci, parla alla chiesa di Corinto, che usa due parole per identificare il tempo. Noi purtroppo ne abbiamo solo una in questo tempo, in questa società. Ma all'epoca, nelle società dell'epoca, nel pensiero dell'epoca, si cercava qualcosa di più grande oltre ciò che si viveva sulla terra. E i greci avevano due espressioni. La prima è Cronos, che identifica lo scorrere delle lancette. Ed è quello che conosciamo noi, ed è tutto quello che ci siamo detti finora. Cronos era una divinità nella mitologia greca. Adesso parliamo di una storia mai esistita, perché è una leggenda. Nella mitologia greca questo Cronos era una divinità così gelosa di tenere il potere che aveva combattuto con suo padre Urano e l'aveva confinato nei cieli. Cronos viveva sulla terra e generava dei figli. Ma questi figli, poiché lui aveva paura che potessero scalzarlo e potessero prendere il potere, se li divorava. Ma poiché i figli erano divinità, rimanevano vivi nella sua pancia. Un giorno sua moglie mette da parte, nasconde l'ultimo figlio di nome Zeus. Zeus diventa un ragazzo, cresce e combatte con Cronos. Zeus sconfigge il tempo terreno. I cieli si aprono. Il figlio di Zeus si chiamerà Kairos. Kairos significa per i greci tempo opportuno, tempo favorevole, tempo che viene dal cielo. Kairos era raffigurato come una divinità bassa ma molto veloce, con le ali ai piedi e con un ciuffetto, una ciocchetta lunghissima. E l'unico modo per afferrare quel tempo opportuno era poter prendere il ciuffetto, perché era così veloce che quel tempo passava e bisognava riconoscere quel tempo. L'apostolo Paolo in quella lettera scrive il Kairos, il tempo opportuno, il tempo favorevole, il tempo di Dio è qui. E sta dicendo, tante volte la nostra priorità è focalizzata sul tempo delle lancette. Noi ci preoccupiamo anche a giusta veduta della nostra famiglia, dei nostri figli, dei nostri matrimoni, a tal punto da mettere al centro e pienamente al centro le nostre paure, le nostre ansie, i nostri insuccessi. Viviamo le gioie, viviamo le sconfitte, viviamo il pianto, viviamo l'allegria, e questo sembra diventare il centro della nostra vita. Ma Dio ci dice: sposta il centro verso un tempo diverso, verso il tempo che viene da Dio, verso il tempo che è un tempo opportuno. Se vogliamo riproporre i versetti che abbiamo letto, è scritto che questo tempo si sta abbreviando, si sta accorciando. E questa parola in greco ha a che fare con le vele di una nave che vengono spiegate, che vengono rimesse a posto quando la nave è salpata e arrivata a destinazione. Quindi l'apostolo Paolo sta dicendo questo: il tempo di Dio c'è, è presente, e Gesù ha già stabilito un tempo speciale per ognuno di noi. Sali su quella nave, sali su quella nave e riposati. Dio non vuole una vita stressata. Dio ci vuole portare in un tempo nuovo di riposo. E Cristo Gesù è venuto a portare questo tempo nuovo. Cristo Gesù è colui, e questa non è una leggenda, questa non è una favola, questa non è mitologia, questa è realtà. Cristo Gesù è venuto per portare guerra a quel tempo ostile che diceva: tu, uomo, sei condannato a motivo del tuo peccato. Tu morirai, tu non ce la farai con le tue opere. Cristo Gesù è venuto ha dichiarato guerra a quel tempo e ha stabilito un tempo nuovo. E alla croce lui ha vinto. I cieli sono aperti. Il tempo nuovo, il tempo di Dio, il tempo eterno è per noi. Il tempo della grazia è per noi. Gesù ha vinto e ci ha dato un tempo nuovo. Ci ha dato nuove opportunità. Ci ha dato nuove possibilità. Tempo nuovo. Kairos. Tempo di Dio. Guardate, c'è una certa correlazione tra quello che diceva la mitologia greca e quello che è successo nella realtà. Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Entriamo nel suo riposo. Ma, in modo molto pratico, poiché la vita e i ritmi della vita sono incalzanti, in che modo possiamo vivere questo riposo? E in che modo possiamo combattere in Cristo Gesù lo stress, il tempo che ci viene addosso in modo furibondo? In che modo possiamo combattere e possiamo vincere? Oggi vediamo 4 punti. Il tempo di Dio è un tempo eterno. Il tempo di Dio è un tempo di salvezza. Quando l'Ecclesiaste diceva c'è in noi il pensiero dell'eternità, diceva una cosa giusta. E quell'eternità Gesù Cristo ce l'ha rivelata quando ha vinto la morte, quando ha sconfitto la morte, quando ci ha detto con tutti i tuoi peccati vieni a me e vivi l'eternità. E quando noi viviamo le gioie o i dolori o le cose che viviamo ogni giorno, probabilmente diamo priorità in determinate situazioni della nostra vita, in quel tempo, quando tutto diventa più pesante, quando tutto diventa più difficile, ricordiamoci che oltre questa vita terrena che è limitata da spazio e tempo, c'è una vita eterna che ci aspetta. E questo è incoraggiante, e questo è bello, e questo è prezioso per noi. E oltre questo, il tempo di Dio è un tempo di salvezza. Leggiamo 2 Corinzi capitolo 6 verso 2. È scritto: eccolo ora il tempo favorevole, il kairos. Eccolo ora il giorno della salvezza. Ancora una volta, qui si sta utilizzando il tempo di Dio. Eccolo qui il tempo favorevole. Eccolo qui il giorno della salvezza. Possiamo ringraziare Dio anche quando le cose non ci vanno bene, anche quando il tempo su questa terra sembra dirci che quello che vogliamo realizzare, che quelle che sono le nostre aspettative, al momento non si concretizzano, ricordiamoci di questa grande salvezza che abbiamo ricevuto. E se tu sei qui per le prime volte, io ti invito a sperimentare quanto è buono Gesù. Lui è venuto a morire per i miei e per i tuoi peccati. Lui si è fatto carico delle mie e delle tue pene per aprire un nuovo capitolo nella storia della nostra vita. Perché fino ad ora, senza Gesù, noi siamo stati poveri, noi siamo stati senza forze, noi siamo stati senza speranze. Ma con Gesù tutto cambia: vita eterna, vita di speranza. Se manca pace, Gesù viene a mettere la sua pace nel tuo cuore. Se manca serenità, Gesù viene a mettere serenità nel tuo cuore. Perché il tempo di Dio è ricco di tutte queste benedizioni, perché il tempo di Dio è questa grande salvezza che possiamo gustare insieme. Il tempo di Dio viene all'improvviso. Il tempo di Dio passa, lo dobbiamo cogliere, lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo acciuffare. Quando parlo di questo, penso alla mia vita e penso a come sia molto difficile per me ritagliarmi dei tempi personali, perché io mi alzo il più presto possibile e zitto zitto esco dalla camera da letto e sento la vocina, papà, e gli dico la mia giornata inizia così, ok, sono pronto a soddisfare le esigenze di mio figlio. E poi si svegliano gli altri, uno per volta. E poi è tempo di andare a lavorare. E al lavoro si trotta, e al lavoro si fanno tante cose, si spendono energie, e poi arriva il momento che tu hai fame e torni a casa. E stai davanti al primo, e poi arriva il secondo, e sento mio figlio che dice, papà, quando giochiamo? E capisco che non ho tempo per fare altro se non stare insieme a loro, insieme a prendermi cura quindi dei miei figli, prendermi cura di mia moglie, occuparmi anche di lei. Si torna al lavoro nel mio caso, torno a casa e sono stanco, ma ci sono tante cose da fare, forse ci sono delle attività da svolgere, o forse se stiamo a casa preferiamo rimanere sul divano perché la giornata è stata molto ricca, molto, molto forte. È una routine che si svolge ogni giorno. Poi si va a letto e c'è un figlio che va a dormire alle 9 e uno che va a dormire alle 11. E si arriva la sera tardi senza più forze, ringraziando per questa giornata, e finisce tutto lì. E dov'è il tempo che io posso acciuffare? E dov'è il tempo che io posso prendere? Guardiamoci. Prendi del tempo nelle pause che puoi vivere. Prendi del tempo la mattina, svegliandoti ancora prima, sacrificando forse un'ora del tuo sonno, ma prendendo del tempo personale con Dio. Prendiamo questo tempo, perché questo è il tempo opportuno per la nostra vita. Perché quando viviamo questo tempo, tutto quello che avviene durante la giornata non ha la stessa valenza. Non sembra così pesante. Non sembra sopraffarci tanto da dire io sono stressato. Prendiamoci un tempo per vivere la Chiesa. E quando arriva la domenica, veniamo avanti. A me capita in questo tempo di stare dietro. Io ho detto al pastore, dietro è bello, si ascolta, però avanti è più coinvolgente. Vieni avanti. Qui non ci sono, salvo 2 o 3 posti, non ci sono posti riservati. Non ci sono posti d'élite. Chi sta avanti ha una stessa caratteristica che abbiamo ognuno di noi. Siamo tutti peccatori, quindi sei benvenuto avanti. Facciamo a gara la mattina, la sera più o meno funziona. Facciamo a gara la mattina a chi prende i posti avanti, perché voglio di più, perché voglio ricevere, perché voglio vivere pienamente Dio nella mia vita, nella mia chiesa, assieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Prendiamoci del tempo per i gruppi che sono speciali. Prendiamoci del tempo per seguire la formazione che la Chiesa offre, il P1, il P2, il P3. Poi ho saputo che ci sono 2 persone che fanno il corso matrimoniale. Ho saputo che è bello. Venite. Prendiamoci del tempo per vivere la Chiesa. Prendiamoci del tempo per cogliere quelle opere che Dio ha già stabilito nella nostra vita. Leggiamo il prossimo passo. Galati 6:10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, ancora una volta la parola è Kairos, finché c'è il tempo favorevole, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Facciamo del bene, prendiamo le opere che sono di Dio, facciamole nostre, cogliamole, perché il tempo di Dio è un tempo sovrannaturale, perché il tempo di Dio è un tempo straordinario, il tempo di Dio è un tempo di miracoli, il tempo di Dio è un tempo di guarigioni, ed è bello, ed è buono, ed è biblico quando qualcuno viene avanti e vuole l'unzione dell'olio e vuole che i leader possano pregare per la propria vita. Ma questo serve perché noi in Cristo Gesù, quando siamo fuori con le persone che non conosciamo, parlando di Lui, possiamo imporre le mani e dichiarare guarigione nella vita delle persone intorno a noi. Partendo da un mal di testa? Sì. Partendo da noi. E quando io penso ai fratelli e sorelle, penso alle case nostre. Partendo dalle case nostre, facciamo il bene, cogliamo le opportunità che Dio ci mette davanti. È straordinaria una carezza che tu puoi dare a tua moglie o tuo marito. È straordinaria. È straordinario un ti voglio bene. Sono straordinari 30 minuti di conversazione in famiglia. Sapete perché? Una coppia ha una media statistica di 21 minuti a settimana di conversazione. Non del più e del meno. Di come stai? 21 minuti. 30 minuti di conversazione significano che già abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario, di sovrannaturale. Sovrannaturale non è solo potenza, prodigi, miracoli, ma è anche un gesto che noi possiamo rivolgere alle persone più vicine a noi. Il Kairos è un tempo che arriva, lo possiamo riconoscere, lo possiamo afferrare, lo possiamo aspettare, sta a noi. E questo ha a che fare con le nostre aspettative. E tante volte noi ci poniamo delle aspettative e quando non arriva ciò che desideriamo, iniziamo a stare male. E tante volte noi chiediamo a Dio che Lui soddisfi le nostre aspettative. E abbiamo fede più nelle nostre aspettative che nel fatto che Dio ha il meglio per noi e anche per le nostre aspettative. Tante volte forziamo la mano e chiediamo nel nome di Gesù di fare quello che noi desideriamo. Io vi voglio parlare di qualcosa di molto forte e non è facile parlarne se non ci passi ed è molto delicata, per questo ve ne voglio parlare. Noi abbiamo per tanti anni aspettato che potesse nascere un figlio. E all'inizio, ok, e poi vediamo se viene. E poi sono passati 2, 3, 4 anni. E più passava il tempo, più si provocava pesantezza nella nostra vita. Mia moglie non c'è qui, però quando vedrà, sappiate che ha firmato il modulo della privacy, ok? Perché adesso parlo di lei. Mia moglie a un certo punto l'ho vista anche piangere. E io ero lì a incoraggiarla, con la mia fede spavalda, a dirle, non ti preoccupare, abbiamo fede in Dio. E questa fede spavalda andava avanti, anno dopo anno, siamo arrivati al 6º anno. E più passava il tempo, più le soffriva. E mi rendo conto che quel pianto era pianto provocato da stress. Perché? Quello che era un desiderio non si stava avverando. E a un certo punto ho sentito forte nel mio cuore la voce di Dio che avrebbe operato nella nostra famiglia. E io ho detto, Enzo, stai tranquilla, Dio sta operando. Ma ho fatto una leggerezza. Io mi sono dato un tempo, perché sentivo la voce di Dio e il tempo imminente che stava arrivando. E ho detto, è arrivato il tempo di Dio, questo mese è il tempo giusto. Guardate quante volte la nostra mano vuole forzare i tempi di Dio. Ma chi siamo noi per dire a Dio quando intervenire nella nostra vita? Chi siamo noi? E quando questo non è arrivato, io ho messo in discussione tante cose nella mia vita e quella fede spavalda è diventata una fede fragile che si è sgretolata come un castello di sabbia. Perché era fondata su un tempo formato da lancette. E io volevo che quel tempo proclamasse e dicesse ciò che era nel mio cuore. Ma non avevo fatto i conti con Dio. E a un certo punto ho detto, se io sto così, come posso consolare mia moglie adesso? Cosa le dirò? E allora sono andato avanti, ho detto, senti, io non sto bene. Io sto mettendo in discussione tutto, sto mettendo in discussione la voce di Dio, sto mettendo in discussione ciò che io sono in Cristo, sto mettendo in discussione tutto, perché forse non ho capito niente, c'è confusione nella mia vita. E lei è venuta da me e ha detto, io invece sto bene, assurdo. Cioè, ero io a consolarla. Tu stai bene? Tu stai bene? Sì, perché ho compreso una cosa. Ho compreso che è arrivato il momento che ci dobbiamo affidare a Dio. Ci dobbiamo affidare a Dio perché Lui ha il meglio per la nostra vita. Lui ha il meglio per la nostra vita. Tante volte siamo noi a voler dirigere la nostra vita senza pensare che il tempo di Dio è il tempo migliore per noi. Con o senza matrimonio, con o senza figli, con gioie ma anche con dolori, Dio ha stabilito il tempo migliore. Lo dobbiamo aspettare e dobbiamo vivere in questo tempo. E questo ha cambiato la prospettiva, perché Dio mi ha insegnato una cosa. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Tante volte rimaniamo delusi dalle aspettative. Tante volte noi vogliamo vedere tante cose belle realizzarsi, ma focalizziamo i nostri obiettivi su di un tempo che ha un inizio e una fine, sta passando. Tante volte le donne vogliono fare shopping, la cosa più bella è andare a fare la spesa, forse è l'obiettivo di oggi, e mi porto mio marito insieme. E quando ho letto il primo passo che abbiamo letto in 1 Corinzi, ho immaginato la tristezza del marito che deve andare insieme alla moglie a fare shopping e alla gioia della donna che fa shopping in quel giorno. Ma non è questo importante, ma non è questo vitale. Per la gioia dei mariti, Dio dice non essere più triste di questo, perché c'è qualcosa di più grande. C'è qualcosa di più grande che vive nel nostro quotidiano, che vive dalle nostre ricchezze, che avere una bella macchina, che avere tanta felicità su questa terra. C'è il piano di Dio per la nostra vita. E forse sta vivendo una stagione che chiameremo inverno, o deserto, come è stato detto prima. E non vede ancora terreni fertili, e non vede ancora arrivare la primavera. Sapete, io ho conosciuto, e vi voglio parlare di un gruppo di ragazzi, non di questa città e non di questa chiesa, che vivevano un tempo di chiesa terribile, difficile, e umanamente parlando era un tempo di fallimento. E se si vedeva solo al Cronos, cioè a quell'orologio, non c'era più speranza. Un giorno quei ragazzi hanno rifondato il gruppo dei giovani, l'incontro dei giovani, e hanno chiesto un nome a Dio. E hanno seguito un giorno una predicazione che parlava del tempo di Dio, e hanno detto: il nostro gruppo si chiamerà Kairos, perché crediamo che nonostante tutto quello che sta succedendo a noi, c'è un tempo speciale per la nostra vita. Sapete, in quel gruppo c'ero anche io. E qualcosa di speciale è avvenuto in quelle persone. Forse noi volevamo remare, desiderare qualcosa di diverso, ma Dio aveva il tempo giusto per ognuno di noi. E chi ha afferrato quel tempo, e chi ha percorso quel tempo, e chi ha aspettato quel tempo, oggi può dire: il tempo di Dio è giunto. Non c'è più inverno, c'è primavera, non c'è più deserto, c'è un terreno fertile. E io sento di vivere in questo tempo un terreno fertile nella mia vita, perché qualcuno ha tolto le pietre, qualcuno ha arato, qualcuno ha innaffiato, e vivo un tempo speciale. E vivo un tempo speciale. L'inverno forse lo stai vivendo, sta arrivando il tempo di Dio, che forse non coincide con quelle che sono le tue aspettative, ma è il tempo migliore per la tua vita. E infine, il tempo di Dio è un tempo in cui possiamo parlare di questa grande opportunità di salvezza agli altri. Colossesi 4, versi 5 e 6. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo, Kairos. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. È il tempo giusto per parlare di Gesù. Dove? La Bibbia ci dice a Gerusalemme, a casa tua, in Giudea, tra le persone vicine a te. È il tempo giusto, ma come posso fare? Percorri la strada che Dio ti ha affidato, e qualunque momento è quello giusto per poter dare una risposta saggia a chi è vicino a te. È il tempo giusto per vedere Modugno stravolta quando arriveranno i Jesus Revolution. È il tempo giusto per vedere l'Italia sotto sopra, quando noi saremo chiamati ad andare in Sicilia, in Campania, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, per parlare di Gesù. L'Italia appartiene a Cristo Gesù. Ma possiamo fare ancora un passo oltre. Possiamo andare oltre l'Italia e raggiungere le nazioni che non sono ancora raggiunte dall'Evangelo. E qualcuno può dire: ma questo è il compito di uno su mille. Ma noi come Chiesa stiamo invertendo la statistica. Sempre più persone andranno dove Gesù non è conosciuto per parlare di Lui. E se tu ti chiedi: ma come faccio a saperlo? Cogli l'opportunità, percorri questo tempo attraverso i viaggi che Iseotto organizza. Prova a vedere cosa significa la vita di un operaio al di fuori della propria città. Sperimentiamo Dio e sperimentiamo il suo amore, percorriamolo in ogni angolo della terra. Ci vogliamo alzare in piedi? Io vorrei parlare, mentre i nostri occhi sono chiusi, mentre la nostra concentrazione è soltanto su quello che Dio vuole da noi e quello che lo Spirito Santo vuole fare. Io chiedo a te, che forse sta vivendo una vita stressata e che forse hai dichiarato negatività sulla tua vita dicendo: io sono stressato, io ti chiedo di alzare la tua mano, perché Dio vuole togliere ogni forma di impedimento, di stress dalla tua vita. Dio vuole liberare completamente la tua vita. Dio vuole che possa provare la gioia, che possa risperimentare la sua pace, che possa vivere in totale serenità. E io voglio pregare in questo momento per tutti coloro che hanno alzato la mano e per tutti coloro che stanno vivendo una stagione delicata, una stagione che sembra inverno, sembra non passare mai. Nel nome di Gesù, dichiariamo spezzata ogni catena che ci impedisce di vivere quel tempo pieno che Dio ha stabilito per la nostra vita, quel tempo opportuno che Dio vuole che noi viviamo, quel tempo di pace e di ristoro. Nel nome di Gesù ripristiniamo ogni cosa, e nel nome di Gesù veniamo a te riconoscendo che questo è il tempo migliore per noi, riconoscendo che tu farai un'opera straordinaria, aspettando con gioia quello che tu hai per noi, riconoscendo che dobbiamo afferrare in ogni momento il tempo opportuno che ci dai per vivere pienamente te e non i piaceri di questo tempo, che non ci daranno mai soddisfazione, perché solo tu riempi il nostro vuoto, e percorrendo ogni strada per parlare della buona notizia, perché Cristo Gesù vive.